A bordo campo di Dario Ricci. Ho vissuto molto e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Una vita tranquilla, appartata, in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. 2500 chilometri da attraversare in canoa, in solitaria, sul fiume Yukon, partendo da Whitehorse in Canada e arrivando in Alaska. Sì, è proprio questa l'avventura che oggi qui a Radio 24 a bordo campo vogliamo raccontarvi, perché un viaggio del genere è un viaggio alla scoperta di terre nuove, ma inevitabilmente diventa anche un viaggio in se stessi, ai limiti dell'avventura e a cui bisogna dare un senso. E direi che l'ospite di oggi di A Bordo Campo questo senso a questa sfida lo sta dando in tutti i modi, pagaiata dopo pagaiata. E allora benvenuto a Bordo Campo a Igor D'India. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Allora, Igor D'India, classe 1984, originario di Palermo, non è alla prima idea stramba che gli è venuta in mente, Igor, perché documentarista, lo sappiamo, quasi laurea in lingue moderne per il web, ma insomma, il mondo lo hai girato e come, con la telecamerina e non solo. Nel 2005 sei stato in Ossetia del Nord per raccontare quello che è l'eredità tragica della strage di Beslan. Nel 2008 sei stato nel Sahara occidentale per Peace Reporter. E adesso parte questa sfida, una sfida appunto pagaiare in solitaria per 2500 chilometri dallo Yukon fino all'Alaska sulle orme di un grande esploratore, perché Walter Bonatti non è stato solo certo un alpinista, no Igor? È lui che ti ha ispirato. Sì, è stato il punto di partenza, è stato lui, ma anche per altre avventure, per altri viaggi del passato sicuramente, più per approccio ovviamente che per spirito emulativo, perché lungi da me emulare un colosso come Bonatti da tutti i punti di vista, però pensavo che il suo approccio all'avventura, il suo modo di affrontarle, di affrontare la vita, poteva essere, si poteva, come dire, combinare con il mio. Ovviamente io sono nato tanti anni dopo, appartengo a un'altra generazione, a un altro mondo, quindi sarebbe stupido applicarlo proprio copia e incolla, no? E potevo farmelo un po' anche l'avventura, potevo cucirmelo addosso come un vestito sulle mie capacità, sui miei limiti, però anche per le mie curiosità. Beh, limiti che poi non sono tantissimi, visto quello che t'appresti a fare, però il tracciato, il canovaccio di questa avventura è proprio quello disegnato da Walter Bonatti, perché nel 65, dopo essere entrato già nella leggenda dell'alpinismo, Bonatti iniziò ad esplorare il mondo, come diceva lui, in direzione orizzontale, come inviato di epoca, e proprio come primo reportage attraversò i territori della Gold Rush, della corsa all'oro, quindi il Canada e l'Alaska, ridiscendendo in canoa ai fiumi Yukon e Porcupine sulla scia di quelle che erano le straordinarie narrazioni dell'età dell'oro di Jack London. Beh, ecco, perché hai scelto proprio di rievocare quell'avventura di Bonatti, Igor? Perché ho sempre avuto una certa curiosità in più per il Canada, per l'Alaska, per le grandi foreste, anche a me piaceva London, e quindi forse, come dire, è stata l'unica che in realtà mi ha fatto pensare, dico, ma perché non andare a vedere cosa è cambiato in questi 65 anni? Siccome lui parla molto bene, una cosa anche abbastanza rara da trovare in tutti i Bonatti, fa degli elogi sulla gente di social media, no? Cioè dice addirittura gente con la quale vorresti vivere sempre assieme, cioè è difficile lui si esponesse in questo, in queste celebrazioni di alcune popolazioni, specialmente quelle che vivono in posti così isolati. Magari è ancora così, magari c'è ancora qualcosa in questi posti dal grande fascino come può essere lo Yukon, che c'era 50 anni fa quando è andato lui, quindi perché non provare ad andare a vedere e documentare. Vale la pena anche sottolineare che tu il Canada già l'hai conosciuto, ma sotto tutt'altra veste, no? Perché per racimolare il budget necessario a questa sfida sei stato per parecchi mesi a Toronto, se non sbaglio, a fare però il lavapiatti. Sì, in realtà questa spedizione in questo momento preciso addirittura è la punta dell'iceberg di quella che è una lunga avventura che ormai si può dire essere anche di 2 anni, cioè ormai è in progress da 2 anni e ha visto passare, diciamo, diverse difficoltà, perché come capisci sviluppare un progetto del genere e soprattutto finanziarlo è piuttosto difficile, perché se fai la spedizione in sé magari non è tanto costosa, ma riuscire anche a mettere insieme l'attrezzatura giusta, la preparazione giusta, sia tecnica che proprio a livello di attrezzatura da portare, a livello filmico, ovviamente è anche quella una piccola impresa, soprattutto se sei un mero sconosciuto quasi. Quindi l'avvicinamento al Canada era proprio finalizzato, cioè andare a lavorare 6 mesi in Canada era finalizzato a trovare i soldi per andare a fare quella spedizione in estate, mentre io andavo lì a lavorare d'inverno, ho detto vabbè, lavoro un po' come videomaker, figurati se non trovo lavoro. Peccato di arroganza, perché comunque poi là non ho trovato quello che volevo trovare, e sono finito a lavare i piatti in cucina. Un'esperienza all'inizio estremamente frustrante, estremamente deprimente, oserei dire, era la morte di tutti i miei sogni in quel lavandino, e in realtà a poco sono venute fuori delle risorse, proprio dato lo stato di necessità in cui ero in quel momento. Le risorse sono venute fuori in maniera, devo dire, anche abbastanza violenta. E poi, diciamo, poi chiaramente è stato dopo il momento in cui il cervello si apre, così adesso poi torna, diciamo, sulla normalità, però già hai acquisito uno skill in più, hai fatto un passo avanti, ti ha portato una piccola maturazione, e questo lo raggiungi secondo me solo toccando il fondo, solo nel momento in cui dici intorno a me non c'è nessuna evidenza che quello che sto, che il sogno che stavo rincorrendo può avere una, può avere veramente, può realizzarsi. Beh, di fatto allora Into the Wild non è solo l'attraversare questi 2500 chilometri, ma lo si può trovare il fondo e l'apice anche delle proprie risorse anche in una cucina di un ristorante di Toronto, come ci stai raccontando. Beh, speriamo invece che il fondo non lo tocchi la canoa che spingerai lungo questi fiumi. Ecco, caratteristiche tecniche, come sarai attrezzato? Dunque, intanto per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della canoa, ovviamente facendo questa esperienza 50 anni dopo, prenderò una canoa sì, moderna, sempre canadese, quindi più o meno quasi 5 metri di lunghezza, che ormai fanno però in plastica, in Kevlar, quindi comunque i materiali più o meno saranno quelli, essendo l'economica, sicuramente non me la vado a prendere di legno, ma la faccio costruire. La cosa più importante è che un po' per approccio, un po' per anche cerebrativo, la fase celebrativa, diciamo, di questa spedizione, un po' per scelta mia, quindi per un percorso mio che ho fatto nell'avventura, l'orientamento non sarà supportato da GPS o radiosatellitari o telefoni satellitari, quello che è, ma semplicemente con mappa e bussola, ma proprio perché per lo stato di necessità di cui dicevo prima, cioè ti cimenti comunque con qualcosa, soprattutto un ambiente di cui sei ospite come wilderness selvaggio del Canada e dell'Alaska. E anche lì per orientarti sei molto d'alto, molto più concentrato, per il fatto che non ti puoi perdere, non ti puoi permettere di sbagliare, perché veramente è molto molto rischioso, è una situazione molto pericolosa anche. E quindi questo è l'approccio che ho potuto dare. Tecnicamente poi, diciamo, prenderò proprio con oggetti da portare così sulla canoa, avrò forse un pannellino solare in più per ricaricarmi le batterie, perché ovviamente io vado con roba digitale, quindi avrò bisogno di caricare le batterie sia per telecamera, sì, per la telecamera, sia l'action camera che per la prima camera che userò. E poi i viveri per almeno 2 settimane, quando più o meno ogni settimana dovrei trovare un posto, un paesino, una cittadella. E basta, poi tecnicamente, diciamo, proprio fisicamente, però ci sarà questo. Poi la preparazione ovviamente è già in progress da diversi mesi. Bisogna allenarsi anche duramente, immagino. Tra l'altro tu l'hai fatto anche sulle rive del Brenta con allenamenti in canoa, da quel che so, e poi adesso tra l'altro ti muoverai verso Toronto in autostop, da quello che mi dicono. Sì, da Toronto, poi anche perché l'ho fatto l'anno scorso, quindi più o meno ho capito i flussi migratori come funzionano, farò l'avvicinamento allo Yukon in autostop, che è una cosa molto bella, tra l'altro spesso molto divertente. anche se ancora è inverno quando parto io, perché io parto praticamente a fine aprile, primi di maggio, e vado su in autostop anche perché mi piacerebbe raccontare nel documentario questo avvicinamento anche un po' romantico, no, dell'autostop, di personaggi assurdi che si trovano a difficoltà per arrivare, perché proprio io me lo voglio guadagnare sto fiume, cioè non ci voglio arrivare senza sconti, senza sconti, insomma. Secondo me è bello viversela in questo modo, cioè mi può dare di più. So però che c'è anche un motivo ulteriore. Voglio tornare al punto da cui questa canoa è partita, Igor, cioè il senso, no? Sappiamo quanti siano gli atleti che si cimentano negli sport estremi. Direi che la sfida più grande è quello di trovare un perché, no? Perché altrimenti tutto questo servisse solo a voi, forse non interesserebbe o non ci basterebbe. So che tu hai voluto dare un significato particolare a questo tuo pagaiare ormai vicinissimo. Sì, ho avuto la fortuna di essere supportato da Sport Senza Frontiere, che è una onlus che lavora con ragazzini disagiati nelle scuole, e permette loro, cioè porta lo sport lì dove sarebbe impossibile fare lo sport. Ovviamente molti questa fortuna non ce l'hanno, e ci sono associazioni, per esempio Sport Senza Frontiere, che porta lo sport, e loro, la loro collaborazione per me è fondamentale, perché è stato un grande aiuto. È l'unica, tra l'altro, l'unica bandierina che io porterò sulla canoa, proprio per il segno d'amicizia per loro e per una onlus. Io ho rifiutato la gran parte degli sponsor, perché magari mi chiedevano di mettere, sai, l'adesivo sulla canoa, invece queste cose, diciamo, non mi stanno proprio a genio, anche che c'ha il nome Bonatti Mezzo, e con queste cose non era proprio direi che lo sponsor più grande è proprio lui. Esatto, sì, lui è un po', perché non è lui, diciamo, non è una cosa emulativa, così cerco di raggiungere Bonatti. Lui al massimo mi ha dato un'idea e mi sta un po', come dire, mi sta un po' sorreggendo, ecco, in questa idea. E Sport Senza Frontiere questa cosa la vuole, questo messaggio lo vuole portare nelle scuole, quindi ci sarà poi una tournée a rientro dalla spedizione, tutto andrà bene, con i ragazzini, anche per far vedere anche lo sport applicato alla vita, diciamo così, normale, alla normalità, o come mezzo per realizzare i propri progetti, i propri sogni. Beh, direi che è impossibile non esserti a fianco, pagaiata dopo pagaiata, in questo straordinario viaggio sulle orme di Walter Bonatti, ma anche alla scoperta di quello che è un nuovo te stesso, un nuovo continente emotivo, direi. Allora, un grande in bocca al lupo a Igor D'India per questa grande sfida. Appuntamento quando parti, Igor, velocissimo? Parto a fine mese, fine aprile, e sul blog sarà possibile seguire tutta la fase dell'autostop e poi successivamente, con ovvie pause, anche l'esperienza in canoa. Allora, fantastico, allora un grande in bocca al lupo alla conquista dell'Alaska per Igor D'India, e poi ti aspettiamo qui chiaramente al ritorno a bordo campo, Igor? Speriamo, sarà un piacere, grazie. A bordo campo. C'est parti pour Simone Oregon! Parfait! Allez devant le chrono! Regardez le gros corps impressionnant sur le casque! Oggi a bordo campo facciamo un esperimento, eh? Allora provate a prendere il vostro orologio e a contare. 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco, 5 secondi esatti. Ecco, è il tempo cronometricamente preciso con cui l'ospite di oggi di a bordo campo passa dalla velocità dello 0 ai 200 km all'ora su un paio di sci. Insomma, tanto provate a immaginarvelo, e credo che farete una bella fatica solo a pensarlo. Benvenuto a bordo campo a Simone Origone. Grazie, ciao a tutti. Allora, Simone Origone, 34 anni, valdostano di Champoluc, è fresco dell'ennesimo record mondiale di velocità nel chilometro lanciato. Pensate, sulla pista francese di Vars, Simone ha raggiunto l'incredibile velocità, io appunto faccio fatica anche a immaginarla, di 252,4 km orari. Beh, Simone, insomma, l'autovelox l'hai fregato pure stavolta, diciamo la verità. Beh sì, il bello è che è la seconda volta che riesco a farlo, perché la prima volta è stato nel 2006, era 251,4, e invece praticamente il 31 marzo di quest'anno sono riuscito a fare il nuovo record, che è 2:52.454, proprio se vogliamo andare a vedere anche le virgole. Andiamole a vederle, perché sono determinanti anche quelle per stabilire il record di una disciplina del tutto particolare. Questi uomini, in particolare Simone e Ivan, il fratello, che sono i due grandi campioni di questa disciplina, con le loro tute rosse fiammeggianti, in che materiali sono fatte, Simone, queste tute? Ma praticamente alla base, sotto, quello che va sul lato della pelle, diciamo, è un materiale bielastico, sul quale viene fatta praticamente una spalmatura quasi in PVC, quasi in plastica. È un materiale quasi gommoso, però in realtà praticamente è la base della plastica, perché noi non abbiamo il passaggio dell'aria nelle tute come nello sci alpino, quindi le nostre tute sono al 100% impermeabili all'aria, in maniera da farci sciare più in fretta. Ecco, quindi l'avete visti, Simone e Ivan, con queste tute fantascientifiche, lanciarsi a queste velocità folli lungo queste piste, in particolare quella del record è lunga 1750 metri, partenza a un'altitudine di 2715 metri sino a 2220, poi i primi 1200 metri con un dislivello di 500 metri, no, Simone, servono al lancio, poi ci sono 100 metri nella zona cronometrata e le fotocellule, e infine poi 450 metri per la frenata. Senti, il tutto quanto dura? Allora, più o meno dalla partenza all'uscita della fotocellula ci sono all'incirca 1200 metri arrivare alla fotocellula, e poi ci sono 100 metri delle fotocellule. Il tempo ci si mette sui 16, tra i 15 e 17 secondi arrivare alla fotocellula, e poi in altri circa 10 secondi ci si ferma. Senti, che tipo di preparazione atletica fai per una prova così particolare, dove immagino che le sollecitazioni siano tante e diverse, insomma, dalla necessità di frenare all'equilibrio, perché penso che la minima imperfezione della pista può davvero costare tanto, eh? Chiaramente bisogna avere delle gambe forti, ma poi anche la parte alta, il tronco, ti aiutano a, diciamo, avere più stabilità. E anche il momento che poi della frenata, che ti alzi, un impatto con l'aria molto forte, quindi gli addominali dorsali sono importanti. E quindi c'è tanto lavoro in palestra, poi si fa tanto lavoro anche a livello di equilibrio, di propria accettività, quindi magari lavori sulle tavolette, magari si lavora anche un po' sulla slackline, fare un po' gli equilibristi, proprio in maniera da cercare di migliorare un po' l'equilibrio e la propria accettività. Anche gli sci sono chiaramente ben diversi da quello dello sciatore della domenica, no? Che caratteristiche hanno? Gli sci sono degli sci fatti apposta per questa specialità. È rimasta a questo momento una ditta al mondo che li produce, che è l'Atomic in Austria, e sono degli sci lunghi 2,38 m, sono molto rigidi e non sono esageratamente larghi, perché in spatola e in punta sono larghi 10 cm, tutti pensano che uno degli sci larghissimi, invece non è così, ma sono molto rigidi perché deve essere uno sci stabile. Comunque ci sono vibrazioni, insomma, lo sci, se non fosse così, sbatterebbe molto di più di quello che comunque sbatte, perché su due gambe e comunque due paia di sci, che rimangono due paia di sci, si va oltre 250 all'ora sulla neve, che è una velocità comunque enorme. Ecco, enorme neanche rende l'idea. Tra l'altro, nel palmarès di Simone, vale la pena ricordarlo, ci sono 8 Coppe del Mondo, 29 gare vinte e appunto questi due primati. Beh, Simone, senti, toglimi una curiosità, quando uno torna a casa e dice... Ci sono anche 5 medaglie d'oro consecutive ai campionati del mondo, che ecco, come si dice, per la precisione, ecco, per la precisione. Senti, ma la curiosità, appunto, ma quando uno torna a casa, te, addirittura anche tuo fratello Ivan, e dice ai genitori: mamma, da oggi comincio a fare il chilometro lanciato, a casa che hanno fatto? Sono sbiancati, no? Ma no, beh, intanto è una cosa che si fa per gradi, non è che uno la prima gara che fa sicuramente fa 250 all'ora, quindi si inizia con velocità più basse, poi man mano che uno diventa più bravo si sale sempre di più. Comunque io non è che mi sono svegliato una mattina e ho detto: ho fatto il chilometro lanciato. Prima di far quello ho fatto più di 15 anni di gare di sci alpino, anche a discreto livello, e negli ultimi anni in cui correvo facevo la discesa libera e il super gigante, che sono comunque discipline più pericolose del chilometro lanciato. Chiaramente quando si pensa a queste velocità ci si spaventa, ma è uno sport molto meno pericoloso di quello che sembra dall'esterno. Noi abbiamo la fortuna che la nostra specialità, se uno sta bene, non ha infortuni, può andare un pochino più avanti negli anni rispetto allo sci alpino. Senti, ma tu passi più giorni nella galleria del vento che in montagna? Magari, no? Passo molti di più in montagna, però con Pininfarina in Galleria del Vento, uno o due giorni tutti gli anni li dedichiamo a cercare di, insomma, di testare un po' dei materiali, qualche cosa di nuovo, anche se non è facile, perché comunque la nostra è una disciplina povera, non siamo professionisti, e quindi per fare sviluppo di materiali ci vogliono dei budget che noi non abbiamo, però comunque cerchiamo tutti gli anni con la Galleria del Vento di cercare di scoprire qualche, magari qualche cosina che ci possa aiutare. Cos'è per te la normalità? Perché mi viene da chiedertelo, perché immagino che abituato a quell'adrenalina, a quelle emozioni, sia poi un po' difficile magari commuoversi per un film romantico, no? Ma la normalità, non so, è strano, perché comunque per me fare le gare di chilometro lanciato è normale, perché è quello che faccio, quindi non mi sembra una cosa strana. Però non facendo il professionista, comunque io la maggior parte del mio tempo la vivo come una persona normale, perché faccio la guida alpina, il maestro di sci, l'elisoccorso, lavoro sull'elicottero del soccorso alpino valdostano, quindi per la maggior parte del mio tempo faccio un lavoro come tanti miei colleghi, poi quando facciamo le gare insomma faccio altre cose, però no, per me non mi sembra una cosa strana. Poi è chiaro che ognuno, diciamo, nella propria sfera entra nella normalità. Certo, diciamo che è un concetto relativo e a quelle velocità parecchio sfuggente. La rivalità in famiglia, Ivan come l'ha preso questo nuovo record? Ti avrà fatto i complimenti, poi però dentro di sé magari ha detto, però questo prima o poi lo voglio battere. Sicuramente, vabbè, complimenti, è stato il primo che me li ha fatti all'arrivo, mi è venuto proprio a abbracciarmi mentre io ero sdraiato nel parterre. Però sicuramente, insomma, se uno fa le gare competitivo, sicuramente lui non è contento, ed è normale che sia così. C'è questo record, ma immagino ci siano anche tante altre sfide nel mirino. Ma sicuramente quella di migliorare questo record, perché comunque durante questa gara, se ci fossero state condizioni un pochino più favorevoli, si poteva fare 2.54, 2.55, quindi sappiamo che questo record è battibile, quindi il mio primo obiettivo è di ribattere questo record, e niente, il prossimo anno ci sarà Coppa del Mondo e Mondiali, che sono comunque sempre importanti. E quindi altre medaglie che speriamo entrino nel palmarès. In bocca al lupo a Simone Origone, e prendi il lupo, e ogni tanto prenditela pure calma, mi raccomando, frena, tira il freno a mano ogni tanto, va bene, grazie, buona giornata. Anche per questo appuntamento con A Bordo Campo è tutto, un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, riascoltarci attraverso il sito radio24.it e sempre attraverso il sito scaricare anche il podcast della puntata. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna domenica prossima sempre alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.